E una buonasera o un saluto insomma generale da parte di Max Macchia per quanto riguarda un atto 451 frammenti sonori in quella di Fujiko, Radio Città Fujiko, oppure se state ascoltando insomma il blog, magari un punto non è proprio buonasera, ma magari buongiorno, buon pomeriggio o magari buonanotte, perché no? E, nel senso insomma nottata sveglia, non di quelle dormienti, oppure se volete potete fare anche un viaggio, una sorta di prolungamento ipnagogico, quindi avere quelle sorte di allucinazioni tra appunto veglia e sonno che ci accompagnano prima di appunto entrare in un'altra fase del sonno, e proprio quella fase che ci interessa questa sera, anche se poi in realtà il 451 non si chiama ipnagogico, anche se poi in realtà qualcosina insomma che adesso non ricordo neanche bene. E c'è stato insomma in passato, lo trovate insomma tramite i blog, quindi 451 frammenti sonori .noblogs.org, e speciali archivi, la puntata di questa sera c'entra. Cosa c'entra l'ipnagogia, l'ipnagogico, anzi, con gli archivi, come dire, una raccolta di documenti, anche una raccolta piuttosto insomma importante, di documenti perlomeno ritenuti di un certo valore, anche soprattutto in termini di trasmissione, e perché poi speciali perché particolari, perché singolari nel loro diventare anche appunto oggetto di raccolta, ma non solo, anche nel loro essere strani, weird, come si dice da queste parti, da qualche anno a questa parte, ma sì, non solo da queste parti, insomma, e considerando insomma che anche non moltissimo tempo fa è uscito un splendido libro di Mark Fisher proprio sul weird, tratteremo una sorta di qual misura anche certo modo di intendere Fisher in maniera non proprio direttissima, ma appunto con una sorta di opalescenza, di allucinazione anche su questo. Archivi è comunque archiviabile anche tutto il materiale. In questo senso quello che è stato fatto in termini cartacei lo si sta facendo adesso in digitale, sistema misto ovviamente, e quindi anche ci riporta al file, alla catalogazione del file, anche quello un archivio, un'archiviazione decisamente importante, anche quindi quello che è il digitale. Ma per tornare sulla sorta di cartaceo, quasi un libro sacro per certe musiche sperimentali, per quello che diventerà poi minimalismo. All'inizio, andando a trovare un primissimo Terry Riley, quello di Mescaline Mix, si va a trovare musiche che per molti versi, adesso ascoltandole con tanta acqua passata sotto i ponti, assomiglierebbero più appunto a una sorta di strano archivio, di archivio speciale, con musiche che possono appunto rimandare a quello che è stato considerato in questi anni weird, quindi questo incrocio elettroacustico, questa sorta di tratta psichedelia e psichiatria anche per certi versi. In effetti poi si lavora sugli stati alterati in questo Mescaline Mix, ma soprattutto è un relay che è sul serio molto particolare, sia per appunto un riascolto a distanza di più di 50 anni rispetto all'originale, con un'attualità che forse neanche Rile, insomma, pensava all'epoca, ma soprattutto un carattere che rende speciale questo mescal in mix, e che Rile sì, lavorava su nastri al Tape Center di San Francisco, insieme ad esempio a un altro grande come Morton Subotnick. Con Subotnick si ha proprio l'avvio di certe musiche psichedeliche, e qua veramente si va verso il mondo del weird, dello strano, dell'inconsueto, del sorprendente nel vero senso della parola. Sul serio, musiche nuove per l'inizio degli anni 60, ma tuttora nuove, se pensiamo che appunto questa sorta di patchwork di tape portano veramente a un strano e strambo mondo musicale, molto molto diverso appunto da quello che poi sarà anche il viaggio assolutamente incredibile che compierà Rile poi dai suoi lavori storici, suoi capolavori anzi legati al minimalismo, seppur nella corrente più misticheggiante, potremmo dire, ma una mistica che comunque parte dalla terra per andare appunto verso un altrove, e non invece così un eclettismo, un divago che poi insomma sarà molti anni dopo, parte sicuramente della New Age. Se pensiamo poi che all'epoca spesso c'erano lavori che incrociavano un altro grande che anche lui probabilmente non pensando a quello che sarebbe successo in termini di drone, di frequenze, sto parlando della Monte Young, con quei primi esperimenti legato appunto alla frequenzialità e alla modulazione di questa, la frequenza ovviamente del suono, e anche lui appunto sodale per tanti aspetti appunto a Rile di quegli anni. Se pensiamo ad esempio che in termini di archiviazione Music for Gift, che raccoglie i primissimi esperimenti appunto insieme al Mescaline Mix, c'è anche un'improvvisazione, addirittura musica improvvisata di Rile insieme a La Monte, suona veramente strano, perché insomma sì, di improvvisazione, ma dentro appunto strutture minimaliste, quindi tessiture molto anche fitte, sia quelle di Rile che quelle della Monte Young, quindi un'improvvisazione che invece ci riporta più al mondo jazzistico, impro jazzistico, appunto suona piuttosto strano, ma andando appunto su un antecedente di quello che può essere considerato le weird music, noise, drone, psycho e psichiatric, se vogliamo, anche degli ultimi appunto perlomeno 20 anni, dal 2000, dal nuovo noise americano, senz'altro questo mescaline mix è veramente lavoro d'archivio però profondo, e anche di possibilità, perché no, a tante altre appunto esplorazioni strange ed esotismi, diciamo, mentali, ecco, più che portati appunto sul viaggio fisico. Terry Lee, appunto, Mescaline Mix. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

lavoro seriamente alterato questo, oltre che alterare i pitch della voce, di queste risate che ci portano veramente verso mondi lontani, anche se vogliamo veramente weird, nel senso anche un po' di quel sorprendente che diventa anche un po' inquietante, ecco. E Mescani Mix è sicuramente opera molto originale dentro la stessa originalità, singolarità eccezionale di Terry Riley, proprio per questo suo veramente andare oltre e spingersi verso terreni inesplorati all'epoca, ma per tanti versi forse adesso, insomma, con il recupero anche massiccio di un in un certo modo di utilizzare il suono analogico e delle stesse cassette, se pensiamo ai tape di Basinski e poi i tape rovinati, quindi per tanti versi, oltre che anticipare certo noise tipo Skaters, quindi molto ipnagogico, ma anche certi lavori soprattutto solistici dei vari Wolf Eyes, si va veramente quindi a trovare lavoro epocale in questo senso, seppur appunto disperso dentro una dimensione molto così marginale, anche rispetto appunto alla discografia, ma piuttosto vasta, anche di Terry Riley, certo, rispetto appunto, prima citavo Wolf Eyes, rispetto insomma ai nuovi elettronici, ai nuovi guastatori noise, nuovi più o meno nuovi, e sono discografie insomma limitate, anche quelle di Terry Riley. E passando a qualche cosa che è difficilmente archiviabile, qua veramente siamo sullo speciale archivio, perché facendo ricerche, sì, da una parte sicuramente compilation del 1982 da parte della Touch Record, tra l'altro la prima cassetta della Touch Record, dove ci sono versioni addirittura della prima Blue Monday, che era video 586, detta l'italiana, molto più sperimentale di Blue Monday, anche se poi insomma è tutt'altra faccenda, ma non siamo qua per parlare di quello, magari lo faremo anche più avanti, ma ad esempio con Robert Wyatt, Eric Random, Taxi the Moon, poi insomma un flash con Andrew McKenzie prima di elaborare il progetto Eiffel Trio insieme a Alex Cabaret, Voltaire, Watson, e troviamo dentro questa compilation Hans Eisler e Vladimir Mayakovsky. Se poi in realtà andiamo a cercare il pezzo Subotnik, composto in realtà da Ernest Busch, con un pezzo appunto del 1968 e quindi con alta pubblicazione. Adesso qua se sia faccenda, in quell'epoca andava anche parecchio riferirsi ai Residence e fare una sorta di situazionismo, inventandosi insomma anche compositori, oppure sbagliando volutamente appunto le note, ma tanto sta che diamo come coautori insomma. Poi tra l'altro Ernest Busch, ben diverso insomma da quello che, anche se poi è con Hans Eisler, lavorerà con Bertolt Brecht, però insomma due autori comunque distinti, ecco. Probabilmente insomma uno dà un'attestazione, Ernest Busch, come sette pollici, tra l'altro una rarissima, difficilissima da trovare, e invece poi anni più avanti la Future Mist appunto della prima uscita della Touch Record in cassetta darà appunto Hans Eisler come, come autore. Tanto sta che comunque la cosa che ci interessa, anche questa, ma soprattutto in misura maggiore, è quanto suona veramente assurdo, nel senso vero del termine, nel senso anche molto buono, questa appunto composizione di Eisler e Majakovskij, che è Majakovskij, anche qua punto di domanda, ma andiamola a sentire. The kind which control, alter, they will control the era. Like an animal. Thank you. Polonius che, come dire, ci fanno scherzo, ma potevamo anche aspettarcelo. Beh, visto che di scherzi anche piuttosto pericolosi qualche tempo a questa parte a Tetra ne sta facendo vari, scherzi che sono decisamente interessanti in termini musicali, visto che tra l'altro sono stati citati e nominati insomma anche da Simon Reynolds, che poi tra l'altro abbiamo avuto modo proprio di vederlo qua a Bologna tramite appunto Arte Tetra, che come dire ha scambiato gli omaggi tra Reynolds, scrittore ascoltatore appunto di musica, forse il più grande critico vivente, critico musicale vivente, adesso qualche duno magari si arrabbia, no vabbè scherzo, e sul fatto che si arrabbi qualche duno, e poi appunto venuto qua a Bologna tramite loro, che hanno voluto insomma dire, ringraziare, hanno preso anche la palla al balzo per fargli presentare appunto il libro sul glam. Polonius è una storica compilation, soundtrack, quindi è legata alla fantascienza, e Polonius è già insomma un bel po' di lavori a distanza anche piuttosto ravvicinata, in questo ci ricorda anche qualche duno insomma che girava nella Touch, che prima abbiamo ascoltato con la prima compilation, recuperando Hans Eisler, Vladimir Mayakovsky, e poi buttiamo dentro anche Ernest Busch appunto, mettiamolo che coautore insieme a Hans Eisler, e tutti decisamente trattati, soprattutto Mayakovsky. Sicuramente c'è una sorta di antenato di quello che è il progetto appunto di Polonius, e forse anche dell'intera azione di Arte Tetra, sicuramente insomma quello della Touch, posso essere anche smentito, ma come dire credo proprio di no, e può essere insomma un buon antefatto diciamo di queste inconsapevoli consapevolissime stranezze, quindi del weird che appunto diventa terreno di sperimentazioni tra il gioco, tra il no sense, tra appunto la creazione di un senso che evidentemente ci porta verso un altrove, anche appunto a livello immaginario, si è andato a trovare insomma dei lavori di Arte Tetra, e appunto anche tutto l'immaginario che sollevano, e come uno dei immaginari strambi è quello di Michael O'Shea, da poco ristampato il disco del 1982 da parte della Dome Record. In effetti molta strange music passerà dalle maglie di certa industrial, prima appunto Touch, in questo caso Dome Record, Bruce Gilbert e Graham Lewis, con appunti Dome e con i due Temmo insieme a Daniel Miller in quel caso, crearono tra i suoni più sperimentali dentro appunto le maglie anche molto larghe, se vogliamo, di certa attitudine, potremmo dire noise industrial sperimentale. Michael O'Shea è un busker che appunto viene scoperto dai due, siamo nel 1980-81, e decidono di pubblicare una delle l'unica forse pubblicazione, hanno anche Asimarias, oltre appunto al loro progetto Dome, quindi anche nell'eccezionalità insomma della registrazione dell'edizione appunto della Dome, che danno appunto un archivio piuttosto strano, un busker che anche qua c'è una sorta di antesignani di questi Moondog in primis, ma anche altri che hanno creato insomma musiche partendo appunto dalla strada e avendo una fantasia assolutamente clamorosa nel appunto riuscire a creare situazioni completamente aliene, volutamente tali, e anche quando non volutamente, poi forse ancora più dirompenti. Forse anche una delle grandi magie che ci sono dentro questo album incredibile, che è appunto omonimo del 1982 di Michael O'Shea, che andiamo appunto ad ascoltare per questi speciali archivi di 451 frammenti sonori. Thank you. lavoro veramente eccezionale quello di Michael O'Shea, e dobbiamo appunto ringraziare soprattutto lui, ma anche Bruce Gilbert e Graham Lewis, che appunto se lo portarono in studio e riuscirono appunto a fargli suonare queste sorte di mantra impossibili, potremmo dire, mantra appunto legati alla strada, a quel suono appunto sporco, se vogliamo terroso, smoggoso anche, legato allo smog, e con però appunto questa idea, e poi appunto diventata di fatto musica, o probabilmente senza neanche poi passare dall'ideazione appunto al progetto di fatto, insomma, ma probabilmente avendo quell'approccio assolutamente immediato rispetto alle musiche, quindi avendo quella sorta di magia appunto data da questo carattere diretto rispetto a musiche che comunque potrebbero fare pensare appunto a molti minimalismi strambi. Un po' insomma figlio di certo Monte Young, anche appunto per i minimalismi, il minimalismo di Conrad, e appunto di altri pochi grandi insomma viaggiatori appunto musicali, mentali, ma qua appunto siamo proprio in un'operazione, se vogliamo definirla tale, probabilmente la definiamo ex post tale, proprio diretta, quindi con anche una vitalità proprio data da questo. E per concludere farò sentire qualche paio di minuti per questa prima ora appunto di speciale archivi di 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia. Faccio sentire appunto per poco Machin Fabric, ma appunto lo riprendiamo poi nella seconda ora di 451. Beh, la cosa particolare insomma è che Machin Fabric già ci ha abituato insomma al suo ambient noise mischiato con minimalismo e con field recording, un disegno elettroacustico generale insomma piuttosto interessante. Beh, addirittura qua si fa accompagnare da Marissa Nadr, nasce una sorta disegno, potremmo dire, tra l'oscurità e poi invece una sorta di viatico lunare che appunto prende la musica di Machin Fabric insieme a una cantatrice. Sicuramente siamo più abituati a sentirla appunto in versioni più canzone, seppure molto sempre ispirate. Qua siamo veramente nel regno di appunto una strana fantasia di uno speciale archivio, e che potremmo appunto considerare lunare. Ciao, alla prossima. And I belong.